ci vola e tutte le stelle brillano, i miei occhi guardano il tuo viso nell'oscurità. Sensazioni magiche, il tuo cuore ormai si illumina, il tempo mai non passerà, naina. Sopra il mare noi voleremo con le ali della libertà. Questa notte non passerà. Sensazioni magiche e solo felicità, e mai non passerà, e la notte non finirà. Notte non finirà.